Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. Questa volta la trasmissione la facciamo in diretta dal centro sociale e ci facciamo i Covid, comunque noi non bordello. Allora, è chiaro che non possiamo che non parlare di guerra, non possiamo che non parlare della dichiarazione di guerra che l'Italia ha fatto, oltre alle sanzioni anche da un punto di vista di aiuti militari, all'Ucraina. Però è importante che, prima di entrare proprio nel tema della discussione, no? Il tema della discussione è la miopia politica degli eredi dell'ex Partito Comunista Italiano, poi trasformatesi in DS, cioè fino al PD di Enrico Letta, da Berlinguer fino a Letta. E poi entreremo nella specificità di questa tematica. Però ci sembra opportuno parlare di tre avvenimenti. Uno è successo lo scorso 22 marzo in Polonia, a Krotzwice, vicino ad Opol, dove hanno smantellato un monumento che commemora l'Armata Rossa. E nella conferenza stampa svoltasi a questo paese, Krotzwice, il presidente dell'istituto Karol Naworski ha detto: non c'è spazio per questi memoriali simboli marcati con la stessa con la stella rossa nello spazio pubblico, nella Polonia libera, indipendente e democratico, né nella libera Europa. E diciamo, aver abbattuto questo monumento ai caduti per la liberazione, ai caduti dell'Armata Rossa e per l'intera resistenza dei partigiani, aver abbattuto la stella rossa proprio, paragonarla alla svastica, è qualcosa che è di ignobile, di squallido. Poi parliamo proprio della Polonia, no? Che ha nel suo governo e che ha come formazione politica che ha una grossa adesione dei polacchi, no? Di negazionisti addirittura dell'Olocausto, è qualche cosa. E questo era un memoriale eretto nel 1949, dove furono sepolti 620 soldati dell'Armata Rossa del fronte ucraino. Cioè è squallidissimo, è squallidissimo. E questo, diciamo, questa azione va sotto il nome Cancel e Cancel Kultur, cioè è un'opera di decomunizzazione, diciamo. C'è una cosa volgare, vigliacca, squallida, insomma, cancellare tutti i simboli e ricordi del comunismo in Polonia. E questo è un fatto a cui, questo è chiaro, noi riportiamo ciò che magari in qualche giornale viene risalta. E nessuno ha detto niente fino ad ora su questa cosa. Poi cominciamo, poi ci sono due vicende italiche per ciò che riguarda proprio il clima di censura, e diciamo proprio di censura, proprio per la propaganda di guerra che diciamo proprio stiamo assistendo quotidianamente. E questa riguarda la censura verso un giornalista innaco, Mark Ignaro, diciamo, insieme a tanti suoi colleghi, che diciamo la RAI ha censurata per tutte le informazioni che provengono dall'estero. I vertici aziendali della RAI, impedisce, ha censurato ogni informazione che proviene dalla Russia. E guardate un poco, chi è che, diciamo, è stato, chi l'ha contestato? È stato contestato dal PD, perché, a giudizio del partito di Letta, troppo condiscendente verso le tesi della propaganda russa, della propaganda russa, e che diciamo è stato vietato, censurato di riprendere servizi da Mosca. Il tutto quando, diciamo, da un po' di tempo diciamo nella Russia sia la BBC, la France Press, l'Associated Press, Washington Post, giornali, mezzi di comunicazione giapponesi, indiani, arabi e cinesi, diciamo, mandano servizi dalla Russia. La RAI no. Poi abbiamo un altro esempio, quello che è successo al professor Alessandro Orsini nel programma di Carta Bianca, e riportiamo proprio le parole di Bianca Berlinguer, conduttrice di Carta Bianca, che dice: apprendo che il contratto sottoscritto dalla RAI e dal professor Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di RAI 3, senza che io sia stato consultato in merito. Questo io ho sentito, questo professore Alessandro Orsini, questo professore, al di là che diciamo è un'espressione di un opinionista, cioè uno studioso, un opinionista della società italiana, e che ha posto dei dubbi sulla dichiarazione, noi diciamo dichiarazione di guerra alla Russia, sugli armamenti all'Ucraina, ha posto solo dei dubbi, e la Berlinguer ha lamentato e ha denunciato che tutto ciò è una mortificazione del dibattito, e di uno spazio pubblico dove bisogna esprimere la più ampia pluralità di idee. Questo dovrebbe essere la missione del servizio pubblico. E questo Orsini è uno di sinistra, insomma, uno che dopo questa cosa si rende è un democratico, non è che un militante comunista, antagonista, è un uomo di sinistra, così si considera, che ha rilasciato queste parole, che si sente schifato, perché penso a queste parole sue: mi sento un uomo di sinistra schifato perché penso agli ideali in cui ho creduto e vedo dei parlamentari che sostengono di provenire dalla mia stessa storia, che però non mi vogliono far parlare. E questo per arrivare, guardate un poco, chi si distingue in questa forma di censura, in questa propaganda di guerra, guardate un poco chi sono: Gianni Letta e tutti gli eredi dell'ex Partito Comunista Italiano, che poi a sua volta poi ha cambiato varie terminologie, dal DS fino al PD. È chiaro che questa è una cosa che è squallida e vergognosa, insomma, però ecco, fino ad ora, rispetto a questa censura, a questo modo di porsi, almeno fino ad ora non ho sentito né Fornigli di Piazza Pulita, né l'eterno Figicciotto Bianco di Propaganda Live aver posto qualche dubbio sulla libertà di stampa, che è in Italia ormai censurata. Loro che sono gli artefici della tolleranza, della democrazia, del pluralismo e via dicendo, questi qua non hanno detto nulla. Specialmente uno si aspettava dall'eterno Figicciotto, ma non dei giovani comunisti di ora, Figicciotto della FIGC di D'Alema. Allora, nessuno ha posto almeno un buon senso, ma dove stiamo arrivando? Non possiamo censurare, non possiamo intimidire e reprimere la libertà di stampa. Però ecco, quello che l'espressione, quando noi queste persone soffrono di questa malattia, la miopia politica, che è una malattia congenita endemica degli eredi dell'ex Partito Comunista Italiano. Ed è chiaro che quel che proprio lascia proprio stupore, ma anche inquietudine, è proprio il ruolo di questi che si chiamano democratici. Però, ci sono tutta una serie di dubbi e di domande, che in questo conflitto russo-ucraino, con tutti gli scenari ed assetti geopolitici che ne potrebbero derivare, compresa anche quello, perché se andiamo avanti così si arriverà a uno scontro militare diretto tra la Russia e la NATO. E quello che appunto desta ha destato stupore, desta ancora stupore, sono state e sono ancora tuttora le scelte politiche e militari di quei governi di centrosinistra come la Germania, la Finlandia, la Svezia, cioè proprio tutto il centrosinistra europeo, insomma, che ha preso queste posizioni belligeranti. E noi, ecco, ci rifacciamo a queste nazioni come la Germania, Finlandia e Svezia, perché fino a pochi mesi fa queste nazioni erano considerate civili, riformisti, in quanto non inclina alla guerra dalle politiche nucleari. Però è chiaro, è incredibile, ma è vero, si stanno distinguendo per i continui elogi alla guerra, per la corsa al riarmo e per la totale sudditanza alla NATO, il che, diciamo, desta forte preoccupazione. È chiaro, questo per quelle nazioni civili. Per venire, diciamo, al centrosinistra italiano e al governo italiano, anche prima dell'avvento di Draghi, al comando del nostro governo italiota, è chiaro che per noi è sempre stato difficile annoverare la nostra nazione con tutti i suoi governi che si sono succeduti, porre il nostro governo italiote tra i governi europei civili e riformisti. E infatti ci vuole coraggio a descriverli tali, civili e riformisti. Figuriamoci ora, questo prima di Draghi, figuriamoci ora con Draghi e con i continui elogi alla guerra da riarmi di questo dell'attuale congrega governativa, cioè proprio considerarli civili e riformisti, ci vuole proprio una cosa di stomaco, ecco, detto in termini volgari. Però ecco, quello che dobbiamo rilevare è che proprio in un modo incosciente ed allucinante è gli atteggiamenti, l'esternazione di Enrico Letta con tutto il PD, però è chiaro che è in ottima compagnia, insomma. È chiaro che se un certo stupore diciamo ce lo ha causato le scelte politiche, quei paesi civili che compongono la fortezza Europa, è chiaro che le incoscienti e allucinante prese di posizione di Letta e di tutti gli eredi dell'XPC non è che ci hanno poi meravigliato tanto, in quanto le scelte politiche atlantiste e europeiste non sono, diciamo, scelte di qualche mese fa o di qualche settimana fa, ma provengono da lontano e non rappresentano altro che la continuità storica, o meglio, la lunga onda da Berlinguer, passando da Lehman, Renzi fino a Letta, e la lunga onda, fanno parte della lunga onda del revisionismo storico dell'ex Partito Comunista Italiano. Infatti, in questi decenni, le scelte politiche atlantiste del Partito Comunista Italiano avvenute nel 1976 sono state caratterizzate da profonde ed errate valutazioni, analisi, riflessioni che hanno condizionato negativamente l'operato e l'agire politico di una certa sinistra, passata poi centro-sinistra, ora solo centro. E queste, diciamo, queste analisi e valutazioni e scelte politiche hanno condizionato negativamente sia in politica interna che in quella estera, con un unico risultato: la perdita del senso reale della storia, senza comprendere e capirne le varie evoluzioni, o meglio, l'involuzione che, diciamo, a livello non solo italiano, ma anche a livello europeo, e figuriamoci a livello mondiale. Ecco, è chiaro che dire e affermare che dal PC al PD, quindi da Berlinguer, da Lema, Renzi fino a Letta, affermare che hanno combinato solo guai, non sbagliamo, e non si sbaglia. Però mo passiamo un poco, mettiamo un poco la canzone, cioè uno spazio musicale, insomma, con proprio per il contesto proprio storico che stiamo vivendo, con la canzone dei Nomadi, mi pare, Dio è morto. E anche riferito a quello che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro o ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presarate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione, torna un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, che ha già in mano a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto, Dio è risorto. Come sembra attuale questa canzone dei Nomadi, parliamo di più di mezzo secolo fa, un altro poco. Allora, ecco il concetto della nazione, la patria, l'eroismo, e questo è anche per, diciamo, è un, come devo dire, è un messaggio a chi con la scusa di un pacifismo ecco si sta e ci sta coinvolgendo in una situazione molto pericolosa, e questo è anche un messaggio a quei pezzi, scusatemi il termine, di merda che hanno buttato giù la Stella Rossa in quel paesino polacco, cioè è proprio un affronto le centinaia di milioni di persone che sono morte per la libertà e la liberazione dal nazifascismo, e ora ci troviamo i nazifascisti in quei territori, dalla Polonia, l'Ungheria e tutti i paesi dell'ex, in buona parte dei paesi che componevano il patto di Varsavia. Però ritorniamo ai nostri democratici atlantisti europeisti, ecco, che hanno combinato solo guai, insomma. E quindi, come abbiamo detto prima, quando i guai che hanno combinato subito dopo la scelta atlantista del Partito Comunista, hanno solo combinato guai, e come devo dire, e combineranno guai, e a confermi quando sopra, quando abbiamo detto prima, voglio dire, che per noi però non sono una novità, noi militanti comunisti da un bel po' di anni, specialmente rispetto alle prese di posizioni che il signor Letta, a nome di tutto il PD, e non solo, no? E non solo, compresa anche il Bersani, che mentre prima poneva problemi su queste ricorse all'elmetto, che aveva timore, però lui ha votato l'invio delle armi anche se non era d'accordo. Che, come sono bravi questi ex PC. È chiaro che ci desta preoccupazione le affermazioni che sono l'esternazione. Prima abbiamo citato il partito di Letta che vuole censurare chiunque ponga dei dubbi sulla dichiarazione di guerra italiana alla Russia. E guardate le prese posizioni che ha preso il PD e tutti quanti sta centaglia. Allora, convinto russo ucraino, ecco, bastano le esternazioni incoscienti e pericolose dell'Etta quando dice: purtroppo ci siamo dovuti limitare alle sanzioni contro la Russia e all'invio di armi al popolo ucraino. È chiaro che sono frasi involutive di responsabili di Letta, che però, ecco, sono in linea con la lunga onda filatlantista, piccista, che in questo quasi mezzo secolo di vita repubblicana, dalla metà degli anni 70 ed in momenti storici molto particolari, hanno contrassegnato le scelte politiche e posizionamenti, sia in politica interna che in politica estera. Ne citiamo qualcuna. Non ci dimentichiamo le leggi liberticide degli anni 70 contro i movimenti in Italia, quindi con i carri armati per le nostre strade davanti alle università, le chiusure delle radio libere, la distruzione dei consigli di fabbrica con il relativo disarmo ideologico del movimento operaio e sindacale, così come la terza via di Tony Blair, di Clinton, di D'Alema per un capitalismo dal volto umano, la guerra giusta in Jugoslavia, la vicenda di Ocalan, Iraq, Afghanistan, la Siria, per non parlare della assenza proprio totale dell'invasione dell'esercito, dell'occupazione dell'esercito israeliano dei territori della Palestina, e la vicenda dei curdi. E quindi abbiamo detto Iraq, Afghanistan, la Siria, sino all'attuale conflitto russo-ucraino. Però è chiaro che l'elenco dei guai combinati da Berlinguer e dei suoi successori, D'Alema, Renzi, Letta, veramente è lunga. Cioè, quindi, però al Letta politico quindi, e tutti i suoi seguaci, i suoi affiliati interventisti, e vediamo che è accompagnato da tutto l'arcipelago parlamentare. Però quello che ci dà più, che ci intigna ed è molto vergognoso, irresponsabile e molto pericoloso, è il sostegno di tutti i mezzi di informazione, sia televisivi che della carta stampata, che recitano tutti insieme appassionatamente un unico copione: il copione della propaganda di guerra e la fedeltà assoluta alla NATO e agli USA, che sono considerati i veri difensori dei valori occidentali, degli esportatori della democrazia. Abbiamo citato l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria, gli esportatori della democrazia. E vediamo che tutti insieme, appassionatamente, questi grandi mezzi di informazione, per chi solleva dei dubbi, abbiamo citato il caso di Innaro e Orsini, chi solleva dei dubbi su questo clima guerrafondaio, sul ruolo interventista dell'Italia e sulla totale sudditanza agli USA e a NATO, e chi ecco, solleva dubbi sulle conseguenziali ricadute economiche, sociali, ambientali, comprese anche le pesantissime e drammatiche ripercussioni politico-militare, non solo in Europa, nel resto, ma anche nel resto del mondo, scatta l'accusa di putinismo. E guardate che noi stiamo assistendo alle minacce di conflitti contro anche la Cina. Quindi è in altre parti, diciamo, in cui gli scenari politici sono simili, gli scenari politici che hanno portato al conflitto russo-ucraino. E vediamo che appunto chi solleva dei dubbi, ecco, il clima politico-culturale che attualmente viviamo nella nostra nazione italiota è contrassegnata dalla censura, alcuni piccoli casi l'abbiamo detti prima, o viene dalla censura oppure viene, diciamo, verso chi pone dei dubbi avviene lo sberleffo, insomma. È chiaro che verso chiunque sollevi dei dubbi sul fatto, per dire, che non si debba parlare di dichiarazione di guerra dell'Italia. Infatti chi pone questi dubbi sulla dichiarazione di guerra dell'Italia alla Russia, con tutte le ripercussioni economiche e sociali che ne derivano, ne deriveranno e che ricadranno esclusivamente sulla pelle dei cittadini, allora vengono censurati o sbeffeggiati. Sui pericoli della tenuta democratica nel nostro paese, dopo l'ulteriore picconata ai principi cardine della nostra Costituzione, nell'articolo 11, su chi andranno le armi italiote e da quali mani mafiose naziste ucraine saranno usate, alias Reggimento Azov, sui costi del riarmo. E poi chi viene sbeffeggiato? Chiunque ponga i dubbi su quello che chiamano nuovo ordine mondiale, noi chiamiamo disordine mondiale, ratificato nel C20 in Italia, bene ricordarli, con tutti gli assetti geopolitico anche nella fortezza Europa, nel quale l'Occidente civile, europeo, qua stiamo parlando dell'Occidente, di quelle nazioni che considerate civili, insomma, nell'ambito della fortezza Europa, questo, ecco, l'Occidente civile europeo che sarà stretto nella morsa degli ex paesi facenti parte dell'ex patto di Varsavia, dove spiccano proprio per la loro democrazia la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovenia, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania, tutte nazioni facenti parte della NATO. Nazioni che sono così democratiche che per chi che destinano per i profughi in fuga dalle varie guerre, anche abbiamo citato la Siria, l'Afghanistan, il Kurdistan, allora per questi profughi ecco, ci sono solo filo spinate. Sono queste nazioni così democratiche che hanno lasciato morire assiderate dei bambini siriani, afghani, ma che, diciamo, la solidarietà, ecco, questi sono profughi di serie B, abbiamo la solidarietà per profughi di serie A, che solo per il colore, solo per gli ucraini, però che debbono essere del colore bianco della pelle, per questi, diciamo, profughi tutta la massima solidarietà. È chiaro che siamo solidali anche noi per chiunque scappa da guerra, ci mancherebbe altro, però anche per capire come esistono profughi di serie A e profughi di serie B, così come esistono le diversità tra un giovane palestinese che, diciamo, lancia una molotov contro l'esercito occupante e usurpatore, e questi sono considerati terroristi. Se degli ucraini fanno le molotov e le lanciano, questi sono eroi. È chiaro che, ecco, così come chiunque sollevi dubbi sulla condizione dell'Italia e del Mediterraneo, cosa succederà appunto dopo la dichiarazione d'Italia, la dichiarazione della guerra dell'Italia alla Russia e della sudditanza alla NATO, che succederà sulla condizione appunto dell'Italia e del Mediterraneo, delle aree geopolitiche saranno resi sempre più ostaggio dei progetti del grande sultanato turco, della grande Israele, della Libia in mano determinata organizzazione criminale e via dicendo, e degli stati identitari e religiosi, insomma, e lo scenario geopolitico che già era, diciamo, nei programmi e che ora si va a consolidarsi sempre di più. Così, ecco, chi pone viene censurato, chi pone i dubbi sull'antieconomicità di pagare in dollari l'intera riorganizzazione della rete energetica dopo le sanzioni, dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Russia, ricordiamo, nazione da cui l'Italia ne dipende il 45%, diciamo, dipende dalla Russia per quanto riguarda il petrolio e il gas, e surrendere sempre di più, ecco, chiunque pone i dubbi che questa scelta italiota renderà l'Italia sempre più colonia americana, e in particolare ancora di più il sud Italia, che sarà destinata ad essere sempre più militarizzata, pattumiera anche di scorie nucleari, con diciamo, e con le scelte con lo stato di emergenza per la guerra, come devo dire, con tutte le misure e con tutti i finanziamenti che saranno destinati alla guerra, diciamo, e anche le scelte economiche, diciamo, di non avere più il gas russo, diciamo, quindi con lo stato, col nuovo stato di emergenza, noi avremmo un ulteriore attacco all'intero nostro ecosistema, dal mare con le trivellazioni, all'aria con le mega, con la mega centrali a carbone, il suolo con le cementificazioni selvagge per le infrastrutture, e perché no anche qualche centrale nucleare, però di ultima generazione, cioè alla faccia del dissesto idrogeologico e delle politiche green. È chiaro, noi potremmo continuare all'infinito sui dubbi e sui pericoli derivanti dal ruolo belligerante dell'Italia nel conflitto russo-ucraino, così come anche per la totale sottomissione dell'Italia agli USA e alla NATO. Però la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla scelta di portare le spese militari al 2% del prodotto interno lordo. Vediamo che ecco, anche su quest'ultima porcata nella corsa, per la corsa al riarmo delle spese militari, per la quale diciamo gli atlantisti, europeisti, democratici con in testa Letta, i mega giornali della stampa, la Repubblica, fino ai conduttori della Sette, ecco, che si stracciano le vesti, è chiaro che come risposta noi ci affidiamo, anche se può sembrare strano, alle parole di Papa Francesco. Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di stati si sono compromessi a spendere il 2% del prodotto interno lordo per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo. Siete dei pazzi. Ecco, mo mettiamo un altro poco di canzone. Con el mitra, hablando io alzo culo aspettando solo che giunga l'ora, all'angolo della strada, all'angolo della strada, aspettando solo che giunga l'ora, all'angolo della strada, all'angolo della strada. Prego. Vai che si copre il nostro stile contro il loro stile, è guerra contro guerra. Golf total 650 million. Then there's a daily running cost of 3.6 million. 2.6 million net if you take out the 1 billion. Visto? È una questione di soldi. Ehi, Timo, fai tu lo speaker, dacci dati. Chi vive da schiavo, chi incassa è soltanto uno schema. Se vuoi un po' semplificato, ma da un'idea del sistema applicato nel mondo. La divisione è mega, azioni catene, l'azione cucine, sistemi economici, politica assassine tra nord e sud, sud e nord del pianeta. Non sono comunista, nemmeno proprio. Speaker di informazione dipendente, Santa faceva la spesa in occidente, strategicamente un buon cliente, chi nasconde i fatti in mente, Santa è uno di tanti, poi è stato stipendiato, di fili con la NATO, che conta soldi, soldi su macerie, come la parte business, cose serie, le fucilate sui ragazzi in Palestina, berretti verdi in America Latina, perché su che se vergogna, hey, tutto tace, dai giustizia questa, non è sulla pace, perché non è l'Islam che muove Santa, e conta più una banca della Casa Bianca. Metà del mondo vive per scommesse, paga con la vita, il valico di questa guerra è quotato a Wall Street. Money, money, money, money. L'Occidente, sangue, il terrorismo della ghiera, notizie tagliate e ricucite come una bomba nelle orecchie da una brutta banda, Luma Sciaro insegna per grado stata in mafia, anche più la strage regna, e un radio video l'importante è che venda, tanti morti e panico di sicuro si guadagna, tra l'altro poi dall'altra guerra questo è l'ultima, e allora va tele radio giornale bombarda, vai Trevoli, il tuo discorso è stato chiaro, anche questa data a segno. Allora, continuiamo. Allora, proprio avevamo finito come l'unica autorevole voce di dissenso rispetto a questo clima, proprio guerra fondaia, proprio sembrano che il Papa Francesco ha detto voi siete pazzi, vi state rendendo conto? Questa corsa alle armi dove ci porterà, insomma siete proprio dei matti, e infatti sembrano tutti assatanati e le voci fuori dal coro sono proprio poche, insomma, e tranne ecco le mobilitazioni che sono state a Pisa, in Sicilia, in Sardegna contro le basi NATO, e anche perché noi in Italia abbiamo testate nucleari che girano, vanno, vengono, abbiamo questo imbazzimento proprio della cultura delle armi, della corsa al riarmo. È chiaro che diciamo c'è questa l'irresponsabilità delle nostre forze politiche, ma anche del sindacato confederale, che non pone un freno, un dubbio diciamo su questo clima guerrafondaio. Vediamo che Non ci, cioè ormai i nostri mari li abbiamo, sono mercibili a testate atomiche, i nostri cieli abbiamo i B-52 americani che trasportano armi, e diciamo scortati dalla nostra aeronautica con missili armati a tutto spiano. È chiaro, ecco, per dire, portiamo un altro esempio, no, di quello che è successo, di quello che è successo, per dire, in Gran Bretagna, in Inghilterra, ex Inghilterra, dove diciamo c'è stato il caso di un convoglio che è monitorato dalla Nuka Watch UK, che traccia tutti i movimenti delle armi militari dell'Atomic Weapons Establishment Buckfield. Secondo il sito di informazione inglese, l'aumento del numero di testate nucleari annunciato nella recente revisione integrata di sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera è iniziato da tempo e che potrebbe anche essere in via di completamento. Nel marzo del 2021 il governo di Londra aveva annunciato che il Regno Unito sarebbe passato ad una scorta complessiva di armi nucleari non superiore a 260 testate. L'analisi della della Nuke Watch mostra che durante il decennio 2010-2015 si è verificato una lenta ma costante riduzione delle numero di testate nelle riserve britanniche detenute a Coolport. Tuttavia, dal 2015 in poi, questa tendenza si è invertita e c'è stato un netto trasferimento con conseguenza aumento delle scorte detenute dalla Royal Navy. A partire da quel momento, AWAY, il programma di sperimentazione e di innovazione di punta dell'esercito britannico, avrebbe iniziato la consegna dell'aggiornamento della testata Trident, un SLBM imbarcato sui sottomarini classe Ohio alla Royal Navy, sulla base di diversi studi. E la New Watch stima che le scorte nucleari inglesi siano cresciute fino a raggiungere circa le 250 unità. Ecco, questo è il clima, e che questi, diciamo, questi mezzi, queste testate nucleari camminano, viaggiano diciamo per mezza Europa e ora l'Inghilterra, poi abbiamo la Germania, poi abbiamo, cioè, insomma, il mondo sta correndo veramente un pericolo. Cioè, la questione nucleare è diventata un pericolo, e che potrebbe scoppiare da un momento all'altro qualche cosa di irreversibile, insomma. Allora ecco perché, diciamo, l'appello che ha fatto, cioè, noi con tutti questi pericoli, con tutte queste testate nucleari che abbiamo già, diciamo, in tutta Europa, nei nostri, per mare, che camminano per cielo, che stanno nelle acque, i sottomarini, allora noi ci permettiamo di questo corso al riarmo militare e a potenziare ancora di più diciamo gli arsenali militari di testate, diciamo, di testate atomiche. Ecco perché finiamo con questo nostro contributo, con, appunto, con l'allarme che ha lanciato il Papa: voi siete dei pazzi. E noi diciamo a Letta e a tutto il resto di questa compagnia italiota, diciamo, che spinge al riarmo: voi siete dei matti ed incoscienti. Alla prossima, cari compagne e compagne, ciao. nations fighting each other, say they're fighting for peace, destroying crops and the lives of the peasants, leaving them with no means to survive, accusing each other of starting the fight. Is this an arms race or is this a rat race? Stop the war. Destroying animals, crops and human lives, leaving the rest with no means to survive, accusing each other of starting the fight. Is this an arms race or is this a rat race? Stop the war.